Hidalgo FM, la musica che rinfresca, è una stazione radio online nata sabato 21 luglio 2012 a Punta dell'Hidalgo, da cui il suo nome. Siamo una radio musicale pioniera.